Merci à toutes et à tous d'être revenus. Alors, je voudrais ouvrir cette séance de l'après-midi avec cette première section consacrée à la question des nœuds léonardiens ou léonardesques, avec une première intervention de Matteo Residori, alors qu'on ne présente plus et dont je dois dire d'ailleurs la modestie fait qu'on trouve assez peu d'informations en fait sur lui sur Internet, mais qui est maître de conférence à Paris 3, HDR. Et qui d'ailleurs a fait son agère sur la question précisément de l'ingratitude qui l'occupera pour son intervention. Il est également bien sûr préparateur de la question Léonard de Vinci à l'agrégation en collaboration avec Anna Sconza. L'intervention de Matteo Residori sera suivie de celle de Madame Dubar, professeure de littérature italienne de la Renaissance à l'Université Paris 4 Sorbonne, nouvellement appelée Sorbonne Université. Madame Dubar travaille effectivement à la frontière notamment de la littérature et des arts dans l'Italie des 15e et 16e siècles et nous proposera une intervention centrée sur la question de la figure du père de famille dans l'œuvre de Léonard. Donc je leur laisse tout de suite la parole. Je vous remercie. Je remercie Olivier et Frédéric pour leur invitation. Et ma reconnaissance est d'autant plus grande que je suis un léonardien passionné, mais improvisé, ou du moins récent, à la différence de beaucoup d'autres présents. Et je vais faire ma communication en italien, parce que c'est un discours que j'ai commencé en italien et que je compte poursuivre en italien. J'espère être, malgré cela, compréhensible à tout le monde. Je présenterai beaucoup de citations de textes, cela dit. La fortuna moderna di Leonardo Morale, di Leonardo Scrittore, scusate, dipende non poco dal fascino della sua prosa morale, condensata in massime lapidarie, come quelle che Gabriele D'Annunzio cita in gran numero nel suo romanzo Le Vergini delle Rocce, leonardesco fin dal titolo e dall'epigrafe. Nelle prime pagine del romanzo, inventando al suo protagonista un nobile antenato milanese che sarebbe stato addirittura allievo di Leonardo, lo scrittore rievoca un episodio di generosità reciproca tra i due personaggi, uno scambio di doni, e suggella questo episodio citando una massima leonardesca sulla vera ricchezza. Tale immagino il principio delle mutue liberalità, il maestro compensava il discepolo con la vera ricchezza perché non si dimanda ricchezza quello che si può perdere. Il passo esemplifica la strategia stilistica di D'Annunzio, che accentua ad arte la brevità oracolare dei testi di Leonardo, ritagliandoli dal loro contesto. La massima citata è infatti solo l'inizio di un appunto risalente al periodo milanese in cui il concetto è sviluppato ben più distesamente. Non si dimanda, cioè non si chiama ricchezza quella che si può perdere, la virtù è vero nostro bene ed è vero premio del suo possessore. Lei non si può perdere, lei non ci abbandona se prima la vita non ci lasci. Le robe e le esterne devizie sempre le tieni con timore, e spesso lasciano con scorno e sbeffato il loro possessore, perdendo lor possessione. Qui Leonardo enuncia un'idea fondamentale dell'etica stoica. La virtù, per opposizione ai beni materiali, è la sola vera ricchezza, è il solo vero premio dell'agire virtuoso, che deve perciò restare gratuito e non cercare altra ricompensa che se stesso. Il concetto è dunque tradizionale e anche la formulazione di Leonardo sembra tradire l'influsso di fonti latine, tanto per il ritmo gravemente cadenzato della sintassi, abbastanza insolito in Leonardo, quanto per il ricorso insistito all'anafora e all'antitesi, che può ricordare ad esempio un passo tematicamente affine di Cicerone, dai Paradoxa Stoicorum, un passo in cui si tratta appunto di dire che la vera ricchezza è la sapienza. Non abbiamo il tempo di soffermarci sul raffronto che vi propongo sullo schermo. È vero in ogni caso che questa o altre derivazioni possibili sono molto difficili da dimostrare, sia perché, come sapete, Leonardo aveva tutto sommato poca confidenza con il latino, sia perché, soprattutto perché le idee stoiche sono diffusissime all'epoca nei testi morali trequattrocenteschi, in particolare toscani, che rielaborano questo patrimonio filosofico in forme molteplici e a livelli diversissimi. Si passa da delle compilazioni a destinazione popolare, di proverbi come i detti dei morali, alla raffinatissima traduzione latina del manuale di Epitteto che Angelo Poliziano dedica a Lorenzo de Medici nel 79. L'indubbia impronta stoica di questa riflessione corrisponde in ogni caso a un altro aspetto importante della ricezione moderna del Leonardo morale. Oltre ad accentuare i caratteri oracolari della sua scrittura, D'Annunzio contribuisce a promuovere un'immagine di Leonardo destinata a grande fortuna. L'immagine, appunto di ispirazione stoica, del saggio magnanimo, tutto dedito all'esercizio nobilmente gratuito dell'arte e allo studio disinteressato della natura. È vero che, passando dal mito letterario alla ricerca storica, le componenti stoiche della cultura di Leonardo sono state sottolineate da vari studi più o meno recenti. Ne cito alcuni classici, quello di Castelfranco, soprattutto quello di Guérin, e uno più recente di Maria Teresa Girardi, Leonardo scrittore morale, per l'appunto. Carlo Vecce, nella sua sintesi sugli scritti di Leonardo, può dunque affermare che la personale visione del mondo di Leonardo è assimilabile alla dottrina stoica. Non intendo assolutamente contestare questa idea, anche se trovo che in alcuni casi, non nei saggi citati, ma in certe rappresentazioni più vulgate di Leonardo, si tenda forse a slittare dal piano della ricostruzione degli influssi culturali a quello del vagheggiamento di una saggezza superiore, no? Di cui Leonardo sarebbe l'esempio. Quello che voglio fare è piuttosto attirare la vostra attenzione su un altro versante, un altro lato della scrittura morale di Leonardo, un versante direi opposto e complementare rispetto a questo, un versante più cupo, che si può però considerare la premessa, se non dello stoicismo di Leonardo, di una sua aspirazione allo stoicismo. Riprendiamo il testo da cui siamo partiti e osserviamolo adesso nel suo contesto originario. Un foglio del manoscritto A dell'Institut de France, databile intorno al 1492, come si ricava dalla data dei conti sovrascritti in rosso nella parte alta del foglio. La riflessione morale sulla gratuità della virtù si trova in basso a destra. Vi avverto che tendo a capovolgere le immagini di Leonardo perché possiate leggerle insieme a me. Accanto a uno schizzo architettonico e sotto a delle idee per fregi decorativi. Subito sopra questo passo appare quella che si può interpretare come appunto per una impresa, un testo misto di parole e immagini. Il disegno di un grosso pezzo di legno in preda alle fiamme e il breve testo che ne illustra il significato. Il legno notrica il fuoco che lo consuma. L'indicazione sovrastante precisa che questo oggetto andrà rappresentato in mano all'ingratitudine, il che sembra rimandare a una figurazione allegorica più estesa, di cui questo sarebbe solo un dettaglio. Il breve testo sottostante è invece il motto dell'impresa. Il fenomeno della combustione è interpretato in chiave morale come uno scambio ingiusto tra due elementi. Il legno nutre il fuoco consuma il legno. Il primo agisce in modo benefico e generoso, il secondo in modo ostile e distruttivo. In questa forma di retribuzione ingiusta, anzi perversa, possiamo dire, consiste l'ingratitudine, considerata qui nella sua forma più grave. Quella che consiste appunto nel fare il male in cambio del bene ricevuto. Vediamo insomma che la nobile riflessione stoica sulla gratuità della virtù si trova accanto a un appunto che rivela al contrario un'attenzione acuta di Leonardo per il tema della retribuzione. La sua sensibilità ha un vizio che contraddice l'esigenza morale di vedere le proprie azioni equamente ricompensate. Per di più, come abbiamo visto, il foglio accoglie un po' più tardi anche dei conti che della giusta retribuzione sono la certificazione più esatta. In questo, come in altri casi, la stratificazione del manoscritto leonardiano ci invita a portare uno sguardo diverso sui testi che vi si trovano. Qui direi che si percepisce una forma di tensione dialogica tra i testi, o un movimento mentale, come se fossero due reazioni possibili a uno stesso problema. Da una parte la denuncia di un fenomeno come l'ingratitudine, che frustra il desiderio di giusta retribuzione, dall'altra l'atteggiamento nobilmente disinteressato di chi pensa che la virtù sia premio a se stessa. Qui insomma Leonardo ci appare non come un saggio che enuncia serenamente i precetti della sua saggezza, ma come un uomo che cerca soluzioni diverse a uno stesso problema morale. Restano da precisare la natura e le circostanze di questo problema. In una nota della sua edizione degli scritti, Vecce osserva che il motivo dell'ingratitudine figura in altri testi, che poi vedremo più da vicino, imprese, favole, proverbi, e secondo lui potrebbe addirittura attribuirsi a un'impresa privata di Leonardo. Sarebbe un progetto per l'impresa di Leonardo stesso, in cui si può mettere in relazione a un momento di difficoltà nei rapporti con il Moro. Invece si riferisce a degli abbozzi di lettere, la nona e la decima della sua edizione, in cui Leonardo lamenta le difficoltà derivanti da un ritardo nei pagamenti ducali per il cantiere in corso, quello dei camerini del castello, e chiede che gli venga finalmente corrisposto il premio del suo servizio. Si può notare, peraltro, che questa espressione, il premio del servizio, figura anche, ricorda quella che figura all'inizio del paragone, dove Leonardo difende vigorosamente contro l'ipocrisia dei rappresentanti delle arti liberali il diritto di ogni fatica, e quindi anche del lavoro del pittore, ad aspettarsi un premio. Restando sul piano biografico, ci sono altri indizi che si potrebbero inseguire per trovare l'origine biografica di questo episodio, di questo sentimento di ingratitudine, ma non mi ci soffermo per mancanza di tempo. Piuttosto che moltiplicare le ipotesi biografiche, vorrei mostrare qui che l'interesse evidente di Leonardo per questo tema si radica in una cultura, in una sensibilità diffusa, tipiche della sua epoca. Ricostruirò a grandi linee questo contesto e poi tornerò a Leonardo per mostrare che le tracce di questo tema nella sua opera sono anche più diffuse di quanto Vecce non dica, e per cercare di capire qual è la specificità del modo in cui Leonardo lo tratta. Su questo tema ho fatto recentemente, come ricordava Olivier, una ricerca ad ampio raggio che mi ha permesso di constatare l'importanza del tema dell'ingratitudine nella cultura italiana del 400 e del 500. È un tema che prima quasi non esiste e che anche dopo tenderà a essere poco trattato. Se ne trova traccia in un gran numero di testi, latini e volgari, appartenenti a generi diversi, ma accomunati da alcune caratteristiche che ora elenco rapidamente. Primo, sono dei testi non particolarmente complessi ed elaborati dal punto di vista filosofico, no? Sono raccolte di proverbi, dialoghi, trattati, in cui si preferisce, rispetto alla raffinatezza analitica del discorso, l'evidenza, spesso l'evidenza paradossale dell'esempio. Sono dunque testi che si riferiscono, potremmo dire, a un livello di cultura medio-basso, non particolarmente elevato. Per quanto riguarda le categorie di analisi impiegate in questi testi, gli esempi, la fenomenologia, si può dire che essi dipendano quasi tutti da un ristretto numero di fonti, per lo più latine. Ne indico due: il De Beneficis di Seneca e la celebre compilazione storico-esemplare di Valerio Massimo, che dedica tutta una sezione al fenomeno dell'ingratitudine. testi che vengono imitati in, o direttamente o attraverso la mediazione proto-umanistica di Petrarca, che nel De Remedis dedica qualche capitolo al tema, o di Boccaccio, la cui Consolatoria Pino De Rossi è un testo molto diffuso, molto importante nel 400 e di questo tema parla a lungo. Gli autori che trattano questo tema appartengono soprattutto a due ambiti socioculturali, l'umanesimo cortigiano, soprattutto in latino, ed è da questo ambito che viene il testo più importante, più ambizioso, dedicato al tema dell'ingratitudine del 400, che è il De ingratitudine fugenda, dialogo dell'umanista napoletano Giovanni Antonio Campano, e poi l'ambito, diciamo, della cultura volgare fiorentina della, dell'ultima fase repubblicana, soprattutto nella sua vena moralistico-religiosa, che si manifesta, ad esempio, in un testo in poesia di un celebre canterino del primo Quattrocento, Niccolò Cieco, la canzone morale a detestazione dell'ingratitudine, oppure nel trattato contro l'ingratitudine di Vespasiano da Bisticci, un testo perfettamente contemporaneo di quelli di Leonardo, ma che Leonardo probabilmente non ha potuto conoscere perché è un testo rimasto ancora oggi inedito. Allora, se proviamo ad arrischiare in due minuti un'interpretazione globale, si può dire che al di là delle motivazioni individuali degli autori di questi testi, il successo quattrocentesco del tema dell'ingratitudine rivela alcune trasformazioni profonde nella mentalità o nella sensibilità morale. Direi prima di tutto una secolarizzazione dell'idea di giustizia, la giustizia che è identificata con un'esigenza di reciprocità morale tra individui o di retribuzione, giusta retribuzione dei propri meriti terreni. In secondo luogo circola in questi testi una critica insistente dell'etica stoica, concepita come troppo astratta e volontaristica. E infine si può dire la visione, l'affermarsi di una visione disincantata della natura umana, una forma di realismo antropologico, l'idea in ogni caso che i comportamenti dell'uomo sono ispirati non all'obbligo morale, ma piuttosto alla forza delle passioni e degli interessi. Quindi si può dire che questo, questi testi sull'ingratitudine sono una specie di luogo in cui si matura, viene a maturazione una forma di modernità morale, così almeno io li intendo. Allora, che cosa può aver recepito di questi testi il nostro Leonardo? È difficile stabilirlo con certezza. Si può però notare che tra i libri citati nelle sue liste figurano vari testi antichi e moderni in cui questo motivo è trattato con un certo rilievo. Penso alle epistole di Ovidio, identificabili con le Eroides, che sono un imitatissimo esempio di eloquenza appassionata contro l'ingratitudine degli amanti. Penso al Morgante di Pulci, come sapete amatissimo da Leonardo, in cui uno degli episodi in cui il narratore prende la parola più a lungo, nell'undicesimo cantare, è appunto per condannare con grande eloquenza l'ingratitudine. Penso soprattutto alle favole del Corpus Esopico, di cui abbiamo visto già stamattina l'influsso profondo che hanno avuto sulla scrittura di Leonardo. E tra le favole del Corpus Esopico ce ne sono varie, e due in particolare, di cui vedremo poi il dettaglio, in cui il tema dell'ingratitudine è assolutamente centrale. Sono in effetti soprattutto le favole esopiche ad aver servito da, direi, modello nucleare, da nucleo ispirativo iniziale per Leonardo, perché i testi di Leonardo sull'ingratitudine sono tutti caratterizzati dal ricorso all'analogia, l'analogia tra mondo naturale e mondo umano, oltre che da altri tratti di ascendenza favolistica come la brevità, l'evidenza visiva. e soprattutto l'essenzialità di uno schema narrativo fondato sull'interazione tra due personaggi. Un personaggio compie un'azione seguita da una reazione in attesa e di senso contrario e opposto. Questi testi formano un gruppo limitato e compatto probabilmente anche per l'epoca di composizione, situabile nell'ultimo decennio del 400. Non li analizzo qui uno per uno, naturalmente, ma ne propongo una rapida rassegna, cercando di mettere in luce gli aspetti più originali del trattamento di Leonardo. E propongo a questo scopo di dividerli in tre gruppi. Il primo è quello dei testi che contengono degli echi diretti del corpus esopico. Ve ne presento due. Si tratta di una profezia, la profezia del manico della scura, che è la semplice trascrizione in forma, direi, epigrammatica e paradossale di una favola esopica, quella della scura e del bosco, appunto. Le selve partoriranno figlioli che fian causa della loro morte. Si tratta di appunto del legno del bosco che viene usato per costruire il manico della scura, che poi è usata per abbattere il bosco. Quindi interazione perversa, rubricabile come ingratitudine. L'altro esempio molto diverso di riscrittura di una favola esopica è la favola della noce e del campanile, molto più estesa, come sapete, in cui Leonardo lavora non per contrazione ma per espansione del nucleo originario, ma partendo dallo stesso schema. Si tratta di due personaggi, uno dei quali salva la vita all'altro, impietosito, il contadino e il campanile, e l'altro, per tutta riconoscenza, lo uccide, il serpente come la noce. Lo uccide però obbedendo alla sua natura, una natura che non può essere modificata. Più interessanti sono i testi del secondo gruppo, vale a dire le imprese. Ne abbiamo già vista una, ce ne sono delle altre. Le imprese illustrano l'ingratitudine attraverso un'interpretazione ingegnosa di fenomeni naturali o di gesti ordinari della vita quotidiana. Cominciamo con un esempio tratto dal codice parigino M, dove ci sono varie immagini. Quella che ci interessa di più è quella del mantice, il soufflé, gettato nelle fiamme. La parola accanto, questa volta in latino, ingratitudo, ci guida nell'interpretazione di questa immagine. Il mantice, le soufflé, ha dato vita al fuoco e il fuoco distrugge il mantice che gli ha dato la vita. In altri casi il testo è molto più elaborato e indispensabile per interpretare un'immagine altrimenti banale. Un esempio dal codice Arundel. Il disegno rappresenta in modo stilizzato un momento, potremmo dire, ordinario della vita quotidiana, quello in cui al sorgere del sole un uomo spegne il lume che ha usato per illuminarsi durante la notte. L'ingratitudine, come dice il testo del motto, consiste qui nel togliere la vita a colui che ci ha reso un grande servizio, appunto il lume che ci ha illuminato durante la notte. Ingratitudine che è tanto più grave in quanto, e qui c'è una specificazione interessante di Leonardo, mentre il lume ti aveva reso un servizio individuale, particolare, a te solo, ti aveva fatto un bene tutto speciale per te, il sole invece splende indiscriminatamente per tutti. Ancora più ingegnosa l'impresa successiva dal manoscritto G, la cui ascrizione al motivo dell'ingratitudine è però dubbia, la propone Vecce, è probabile ma non sicuro. Cosa vediamo nell'immagine che sta in alto. Una mano immerge un panno sporco nell'acqua corrente. A partire dal testo, per il pannolino che si tiene con la mano nel corso d'acqua corrente, nella quale acqua il panno lassa tutte le sue brutture, significa quello, eccetera. Non sappiamo che cosa si dovesse significare. L'ipotesi, che mi sembra probabile, è che si desse anche qui un'interazione di questo tipo. Il panno lascia le sue brutture all'acqua e l'acqua toglie, cioè l'acqua pulisce il panno e il panno sporca l'acqua. Quindi in questo caso non abbiamo, come negli altri esempi, una successione di due eventi, abbiamo la scomposizione di un solo evento in uno scambio iniquo tra due soggetti. L'acqua pulisce il panno, appunto, il panno sporca l'acqua. Il meccanismo è lo stesso nell'impresa da cui siamo partiti. Qui infatti le due azioni dello scambio iniquo tra fuoco e legno, nutrire e consumare, sono simultanee, sono anzi le due facce inseparabili di uno stesso fenomeno, la combustione, un fenomeno perfettamente naturale, che viene scomposto qui nelle sue due facce, appunto, consumare e nutrire. Con sottigliezza ingegnosa, dunque, Leonardo si diverte a scorgere sotto la superficie liscia dei fenomeni più banali, un legno che brucia, un'interpretazione, diciamo, moralmente perversa, un nodo inestricabile di forze avvitate su se stesse, che potremmo dire è un po' l'equivalente concettuale di quei fitti intrecci di linee che si vedono accanto all'impresa, come in tanti altri manoscritti vinciani, come sappiamo. Quindi un nodo logico inestricabile. Qualcosa di simile si ritrova anche nel terzo gruppo di testi su cui voglio soffermarmi in conclusione, quello delle profezie. Sono testi che hanno un rapporto evidente con le imprese. Anche qui una realtà in genere banale è sottoposta a un'interpretazione ingegnosa e straniante che ne rivela il carattere intrinsecamente ingiusto. E anche qui l'interpretazione morale implica in qualche caso sottigliezze o acrobazie logiche. È il caso, per esempio, della prima impresa, della prima profezia che vi mostro, delle cose che si mangiano che prima si uccidano, sarà morto da loro il loro nutritore e fragellato con dispietata morte, dove si dà un'inversione logica e cronologica che permette di qualificare come ingrato il comportamento di chi uccide gli animali per mangiarli, producendo anche qui un nodo logico inestricabile, perché il nutritore, l'animale nutritore, può essere definito tale solo dopo essere stato ucciso e mangiato. Quindi anche qui un groviglio interpretativo da cui scaturisce la diagnosi di ingratitudine. Gli altri esempi sono meno tortuosi, ma illustrano tutti con insistenza il carattere ingrato e di una particolare fattispecie, però, il comportamento ingrato dell'uomo nei confronti del mondo circostante, un mondo fatto di oggetti, di piante e di animali. Di questa ingratitudine è espressione tipica il verbo battere, che ricorre in varie profezie, battere il grano, battere i noci e persino battere il letto per rifarlo, che è una delle profezie più memorabili e più virtuosistiche, in cui appunto il semplice fatto di battere il letto per rifarlo è interpretato come una forma di ingratitudine. Verranno gli uomini in tanta ingratitudine che chi darà loro albergo senza alcun prezzo, il letto, sarà carico di bastonate, in modo che gran parte dell'interiora si spiccheranno del loro loco, del loco loro, e si andranno rivoltando per il suo corpo. Allora, in questo caso è evidente che prevale il compiacimento ingegnoso ed enigmistico dell'esercizio. In altri casi ci si può interrogare sul vero senso di questo tipo di scrittura profetica. E mi riferisco in particolare agli esempi in cui Leonardo parla due animali che sono particolarmente esposti all'ingratitudine umana, gli asini e le api. Gli asini offrono un servizio inestimabile all'uomo e ne ricavano in cambio solo battiture, maltrattamenti, cattivo cibo e una vita di stenti. Le api producono la cera, materiale prezioso usato per il culto divino, per fabbricare i ceri della messa, e in cambio vengono annegate, vengono uccise. Allora, in questi casi ci si può chiedere, come peraltro in altre profezie, se le apostrofi alla natura o alla giustizia di Dio, o giustizia di Dio, perché non ti desti a vedere così malmenare i tuoi creati, a vedere così malmenare i tuoi creati, oppure o natura istraccurata, perché ti sei fatta parziale facendo ai tuoi figli da alcuni pietose benigna madre, eccetera. Queste apostrofi sono solo la parodia dell'enfasi profetica, come spesso nelle profezie di Leonardo, o sono invece l'espressione di uno sdegno autentico dell'autore? Questo è un dubbio in cui siamo spesso leggendo questi testi, ma in questi testi in particolare. Allora, questa domanda rinvia a una questione più generale con la quale concludo, vi tranquillizzo. Una questione che riguarda la portata e gli scopi di questo ricorso all'analogia naturale da parte di Leonardo. La domanda semplice che ci si può fare è se questi testi parlino solo dell'uomo, della fondamentale ingiustizia umana, o anche della natura, rivelando il carattere intrinsecamente ingiusto del suo funzionamento. Credo che la risposta a questa difficile domanda debba essere negativa. Penso in effetti che se l'interpretazione analogica della natura può raggiungere un tale grado di virtuosismo ingegnoso, soprattutto nelle imprese, come abbiamo visto, è proprio perché Leonardo non crede alla struttura analogica del mondo, o almeno non crede a una struttura analogica su basi morali. Non crede che se c'è qualcosa in comune tra l'uomo e la natura sia di questo tipo. Insomma, l'interpretazione morale dei fenomeni naturali, come l'abbiamo vista anche attorno al tema dell'ingratitudine, non ci dice niente del funzionamento della natura, le cui leggi vanno indagate con altri mezzi. Per Leonardo serve invece a dare evidenza e memorabilità, stimolando l'ingegno del lettore, a dinamiche che sono puramente umane. In compenso, alcuni di questi testi parlano forse del rapporto tra, non parlano della natura, ma del rapporto tra l'uomo e la natura. Come abbiamo visto negli ultimi esempi, nelle profezie è sempre difficile distinguere tra piacere ludico dell'intelligenza e acume di uno sguardo inquieto sul mondo. Ma l'insistenza di questo schema e la coerenza rispetto ad altri testi, penso al celeberrimo della crudeltà dell'uomo, ci fa pensare che l'ingratitudine fosse per Leonardo una categoria pertinente per parlare del rapporto di sfruttamento cieco e di violenza ingiusta che troppi uomini intrattengono con la natura. E penso che si possa dunque stabilire un collegamento tra questi testi e un testo celeberrimo di Leonardo, che risale però ai suoi ultimi anni, consegnato al Codice Atlantico, in cui si parla appunto del rapporto ideale tra l'uomo e la natura, piuttosto di ciò che non dovrebbe essere il rapporto tra l'uomo e la natura, cioè un rapporto che misconosce il beneficio della vita e della bellezza del mondo, rispetto al quale l'uomo e soprattutto l'indagatore della natura deve essere in un atteggiamento di attenzione riconoscente. Bene, credo di avere già sforato di molto e mi fermo qui. Grazie. Simplement dire. dire aux personnes qui sont derrière, parce que je vois avec plaisir que le public est nombreux, qu'il reste un certain nombre de places quand même devant. Hein. Donc si vous voulez vous rapprocher, c'est possible. Bien, alors je me donne la parole et voilà, je commence avec cette image de Freud, tout simplement parce que, au fond, le travail que je vais vous présenter part un peu du désir de s'inscrire en faux contre un, je dirais pas un lieu commun critique, parce qu'on peut tout à fait y souscrire, mais le fait que les pages de Léonard contiendraient très peu d'autobiographie. Et d'ailleurs, Marc, qui est à côté de moi, a écrit un article avec Sarah Talia Gamba, je crois, où vous parlez d'un corpus autobiographique, mais vous êtes un peu rare, on va dire, à avoir ce type de posture. Et je suis allée dans cette direction. Il est évident qu'allant dans cette direction de chercher de l'autobiographique, on ne peut pas, je dirais, ne pas rendre hommage à Freud, même si son texte a été discuté et est discutable. Personnellement, je passerai bien sûr sur le fameux souvenir, le prétendu souvenir de Léonard de Vinci, et je m'attarderai au fond que sur deux points. L'affirmation que vous voyez, la dernière, hein, il était enfin naturel ce qui à l'époque ne déconsidérait pas, c'est voilà la seule phrase que Freud consacre, on va dire, à l'illégitimité, nous disons plus vilainement la bâtardise de Léonard. Donc la chose est expédiée. Et la citation précédente nous intéresse parce que manifestement, Léonard, et de façon un peu perfide, j'ai intitulé cette diapositive survol, hein, en faisant allusion au souvenir, mais on pourrait dire qu'il a survolé aussi, semble-t-il, ce qu'on appelle les écrits littéraires, hein, c'est-à-dire ses prophéties, ses imprese dont on vient de parler, ses favole, qu'il qualifie de pauvreté. Ça, c'est la traduction de Marie Bonaparte, mais j'ai vu que la traduction anglaise est trivialities. Je dois vous avouer que je ne connais pas l'allemand, donc je ne sais pas quel est le terme original ou originel. Le fait est que Freud n'a pas tenu compte de ce corpus qu'on appelle les scritti letterari, qui pourtant, à mon avis, recelait un matériel absolument incandescent et un certain nombre d'anomalies, je les appellerais comme ça des anomalies familiales, c'est-à-dire des scénarios familiaux tout à fait inquiétants, dont on parlera. Mais la première anomalie, on va dire familiale, c'est l'anomalie originelle, si je puis dire, la première qui vient à l'esprit et que, quelque part, pour des raisons chronologiques évidentes, on se doit de prendre en compte, c'est bien sûr l'illégitimité de Léonard. Et il m'a plu, si vous voulez, de vous proposer cette image sublime de Cecilia Galerani sous cette vilaine espèce, si je puis dire, de la bâtardise, en vous rappelant que c'était la maîtresse de Ludovic le Mort, et que, alors certains disent qu'elle était enceinte quand le tableau a été peint, il me semble que non, mais elle mettra au monde un an plus tard un bâtard, un fils de Ludovic le Mort. Mais comment ne pas penser que Léonard ait pu songer à sa mère, hein, qui elle aussi fut la mère du bâtard, hein, et était une femme inépousable. Alors, à propos de cette illégitimité, ce qui me tient à cœur de souligner, c'est le fait que Léonard en parle. Il n'est certainement pas le seul à être illégitime, il semble que le phénomène fût assez diffus, mais les auteurs pouvaient se positionner différemment. Je songe en particulier à Léon Baptiste Alberti, qui partage cette histoire, on va dire, ou cette tristesse, mais qui n'en dit pas un traître mot. mots. Alors qu'il me paraît important de souligner le fait que Léonard en parle et l'élabore dans des textes que vous connaissez très bien, puisqu'il faisait partie des textes au programme. Et je ne m'attarderai donc pas trop sur ces textes, si ce n'est pour souligner à quel point il y a un traitement non systématique de l'illégitimité qui me paraît quelque chose d'assez intéressant. Donc dans cette première facétie 22, vous avez cette première, cette répartie finalement d'un uomo da bene che non era legittimo, et dont on est fondé à penser que Léonard pouvait s'identifier à cet uomo da bene, hein, et qui quelque part a le dernier mot, et donc retourne une situation qui serait socialement défavorable par un trait d'esprit. Et donc je qualifierais cette première facétie d'euphorique et célébrant cette inversion, on va dire, des rôles entre le bâtard et le légitime qui s'avère être une bête. En revanche, dans la deuxième facétie que vous connaissez tout aussi bien, je dirais qu'on a un scénario qui est plutôt dysphorique et réaliste, puisqu'au contraire, ce qui est mis en scène, c'est l'échec de ce frère qui vient frapper à la porte d'un frère riche, hein, et qui quelque part réclame sa part d'un héritage. Et cette facétie que vous connaissez célèbre, si je puis dire, ou met en œuvre un triple fiasco matériel, intellectuel et moral. Et notre le frère pauvre, auquel encore une fois on a toutes les raisons d'identifier Léonard, on songe bien sûr aux fameuses au procès qu'il a fait à ses demi-frères, hein, pour pouvoir avoir sa part de l'héritage. Et là il m'importe peu de savoir si chronologiquement cette facétie est contemporaine, antérieure et supérieure. Il me semble très intéressant de montrer à quel point, là, de façon tout à fait réaliste et je dirais même assez virulente en ce qui concerne le christianisme, qui ici apparaît comme une idéologie qui quelque part conforte un rapport de force et l'échec donc de ce frère qui ne parvient pas à faire entendre sa requête. Et puis on a un troisième texte qui est tout aussi intéressant, qui est une prophétie je dirais assez extraordinaire, hein, un croisement entre la prophétie et la devinette, et où le thème est encore une fois explicitement traité, et où Léonard semble projeter dans une utopie ou dans un futur une véritable inversion des rôles, encore une fois entre les légitimes. On a ici une transposition botanique, hein, de ce thème de la légitimité et de la bâtardise, et Léonard donc semble imaginer un monde où i filiastri, hein, seraient préférés aux filioli. Alors comment interpréter cette prophétie? S'agit-il d'une revanche? S'agit-il d'une consolation? S'agit-il d'une représailles? S'agit-il d'une dénonciation d'une réalité? Le fait est que vous avez trois exemples ici de la manière dont Léonard traite de l'illégitimité et en traite, je dirais, différemment et sur le plan et du point de vue de la forme et du point de vue du contenu. Quatrième exemple, peut-être moins connu des agrégatifs, puisque ce texte ne fait pas partie, on va dire, des textes et je pense du corpus constitué par Carlo Vesce, qui se trouve aux marges de cette feuille de Weimar où Léonard représente des organes génitaux. Et de fait, pour donner absolument raison à Freud, la question des origines est absolument centrale. Léonard ne cesse de tourner et de retourner cette question dans tous les sens. Ici, donc, on aurait des considérations, on va dire, biologiques, même si le texte en question n'est pas véritablement scientifique, et peut se rattacher à des interrogations assez courantes dans la littérature médicale de l'époque et aussi la littérature sur la famille, où on s'interroge sur les conditions de la conception et l'impact que peuvent avoir finalement ces conditions sur le fœtus. Et là, on a quand même un texte absolument extraordinaire que j'ai intitulé Rêverie, songerie prénatale, où Léonard semble esquisser une sorte d'autoportrait dans le giron maternel, et où le fait que d'être né hors mariage est retourné en avantage, puisque cette naissance hors mariage garantira un figlio di grande intelletto e spirituoso e vivace e amorevole, hein, qui serait donc un autoportrait du même Léonard. Et on a le sentiment que le mariage est au contraire, donc cet enfant né du désir, on va dire, et d'une attraction sexuelle spontanée, sera bien supérieur au rejeton des alliages et des calculs endogamiques que nous savons. Dernière occurrence en ce qui concerne la légitimité, le fait qu'elle apparaît aussi de manière rhétorique, en particulier dans le Libre des Pitours, et de manière encore une fois assez troublante. J'insiste sur ce côté non systématique. Pourquoi troublant ici? Parce qu'on voit que Léonard recourt assez pragmatiquement, je dirais, à ce clivage légitime et bâtard pour connoter de façon positive ou négative, ou pour hiérarchiser. Hein. Donc il s'en sert à des fins rhétoriques, mais jouant sur des associations dont lui-même a été la victime. Donc dans ses textes, hein, est bâtard ce qui est négatif et légitime ce qui est positif. Alors j'en ai fini avec ce qui était, on va dire, le premier pan de cette réflexion, effectivement, sur la famille. On en arrive à ce deuxième pan que j'ai à peine et que j'ai légèrement évoqué. Je n'aurai pas le temps d'aller tellement plus loin. Il me semble que ce duo dont on a parlé ce matin, qui est tellement important, hein, qui est déjà revenu plusieurs fois, on va dire, dans nos bouches, pourrait être très intéressant sub specie familiae, et que la confrontation effectivement entre il hybride et la famille, hein, j'ai déjà rappelé que les deux étaient des enfants naturels, que Léon Baptiste Alberti n'en a jamais parlé, mais que, si j'ose dire, il convertit peut-être son sentiment d'étrangeté en ce formidable hommage à la famille que serait il hybride et la famille, hein, et ce texte monumental, très architectural. On retrouve donc toujours ce contraste entre, sur le plan formel, ces textes fragmentaires, ces bribes de réflexion absolument fascinantes, qui sont le propre, on va dire, de la forma mentis et de la forma scriptura et de Léonard, et puis quelque chose d'architecturé, hein, qui sont ces libri della familia, mais qui, je dirais, ça c'est sur le plan formel. Sur le plan du contenu, j'aurais tendance à dire que d'un côté, on a cet hommage à la famille de la part de Léon Baptiste Alberti, hein, parce que c'est un hommage certes anachronique, certes idéalisé, ai-je lu, mais il n'en reste pas moins que c'est un hommage à la famille, où d'ailleurs est pris en compte surtout le point de vue paternel, et on pourrait voir les bombes, je les appellerais comme ça, que lâche Léonard sur la famille, sur la paternité et sur le mariage, hein, comme le point de vue, bah, justement, du fils de l'enfant naturel. Alors Léon Baptiste Alberti pourrait nous proposer un plan, hein, possible des différentes rubriques, hein, puisque les quatre parties, la première traite de l'éducation, la seconde du mariage, et comme vous voyez, le troisième et quatrième livre s'intéressent aux questions économiques et politiques, et je vais m'appuyer un tout petit peu sur ce schéma pour trouver, de façon évidemment très, très fragmentaire, hein, et très éclatée, un équivalent chez Léonard. Donc je choisis, on a parlé de l'éducation qui occupe le premier livre des livres de la famille. Très intéressant, me semble-t-il, la manière dont Léonard dénonce l'alibi que pourraient constituer les enfants. Et c'est tutti scusati coi figlioli. Hein. Donc dans ce passage, finalement, il dénigre la mauvaise transmission, c'est-à-dire ne donner d'importance qu'à la transmission des biens matériels, alors que ce sont d'autres valeurs qu'il faut transmettre. Mais très intéressant, je trouve, et c'est tutti scusati coi figlioli che ti bisogna nutrire, c'est-à-dire que les enfants ne sauraient être une excuse à ce matérialisme quelque part, hein. Et autre citation qui me paraît intéressante parce qu'elle comporte le mot hérédita, qui je crois est un terme absolument central, mais c'est, si je ne me trompe, hein, la seule occurrence dans Il libre di pittura. Hein. Et donc cette phrase est extraordinaire où Léonard dit qu'au fond, les seules sciences qui aient la valeur, hein, et quand il dit science, c'est aussi art, c'est bien sûr, il pense à la peinture, hein, il s'agit de la peinture, hein, les seules choses qui méritent d'être transmises ne sont pas transmissibles, justement, ni, je dirais, par l'éducation, ni bien sûr par la transmission matérielle. Hein. Mais en gros, ce qui a de la valeur ne saurait être hérité. Hein. Alors, deuxième volet correspondant un peu au deuxième livre de Léon Baptiste Alberti, il y a épars hein, dans le corpus Léonardex, dans ses 7000 pages, différentes considérations sur le mariage. J'ai à dessein choisi de mettre l'accent sur la dot, qui me paraît un point très intéressant que Léonard cible, je dirais, parce que la dot se trouve véritable précisément à la jonction entre le matériel et peut-être le familial, justement. Hein. Donc, ce qu'il avait réprouvé au niveau de l'éducation, qu'est-ce qu'il faut transmettre aux enfants, non pas des biens, mais des valeurs, quelque part, on le retrouve au niveau de la critique de la dot. Donc, ici, vous avez une prophétie qui, comme d'habitude, est assez difficile à décrypter. Il me semble comprendre que Léonard dénonce, au fond, les ingérences, si vous voulez, l'ingérence de logique économique et financière, sur une loi de la nature qui est celle de la reproduction, sur une autre exigence qui est celle de la conservation de l'espèce, et en réalité ces ingérences sont extrêmement malvenues. On repense à notre petit autoportrait dans le giron maternel où Léonard semblait soutenir que était beaucoup plus salutaire du point de vue de la survie et la qualité de l'espèce, hein, qu'il y a quelque chose de presque un peu eugéniste dans ce discours. Le mariage serait anti-eugénique ou eugéniste. Alors là, une illustration plaisante, on va dire, de cette horreur conjugale, avec un premier dessin où on pourrait dire que Léonard sacrifie à un topos misogyne, plus que misogame d'ailleurs, mais qui me paraît intéressant parce que c'est Aristote chevauché par Phyllis, hein, qui est un thème folklorique rebattu, mais que, à mon avis, Léonard s'approprie parce que finalement, cette image met en évidence la conception léonardesque du coït. Je pense que le coït intéresse Léonard parce que c'est un de ces moments, comme par exemple d'ailleurs la fourrie dans la bataille, où l'homme se métamorphose en bête. Donc aussi bien, je dirais, la fourrie érotique ou belliqueuse permettent d'entrevoir en fait ce passage. Et puis en revanche à droite vous avez ce couple grotesque qui est extrêmement intéressant parce qu'il met là en évidence quelque chose dont on va effectivement parler, c'est-à-dire la spécularité du couple, hein, la manière dont on se choisit parce qu'on se ressemble, qui se ressemble s'assemble, hein, et donc ce motif sur lequel on va revenir mais qui est ici représenté le couple uni, on va dire, à l'enseigne du grotesque. Alors, après le mariage et l'éducation, un texte absolument extraordinaire, une autre bombe. Honnêtement, j'ai du mal à qualifier différemment la violence de certains écrits de Léonard, qui est un texte connu, mais je n'ai pas trouvé de commentaire, un commentaire aussi riche que ce qu'il me semble mériter, que je trouve absolument extraordinaire. Donc, Léonard a reçu une lettre d'un de ses demi-frères qui lui a annoncé la naissance de son fils, et voilà la lettre de félicitations qu'il lui envoie. Alors, cette lettre n'a pas été envoyée, et il se peut que ce ne soit qu'un brouillon, mais là encore, je vous dirais, peu m'importe qu'il l'ait envoyée ou pas, que ce soit un brouillon qu'il n'aurait pas définitivement écrit. Il me semble que là, on a un document unique quelque part, hein, qui nous dit quelque chose d'essentiel sur ce que je suis en train d'explorer, hein, et à savoir la conception de la paternité et de la filiation, hein. Et donc j'espère que vous avez le temps pendant que je parle, hein, de lire, où Léonard donc ironise quelque part et dit s'étonner de la superficialité de son demi-frère, hein, qui se réjouit de cette naissance, alors qu'en fait est né celui qui est qualifié d'ailleurs comme héritier, hein. On voit très bien comment Léonard a bien intériorisé cette mentalité notariale dont il est issu, et comment le nouveau-né a déjà des droits sur l'héritage, hein. Et puis vous avez ce final absolument extraordinaire où donc, la lettre de félicitation devient une lettre de malédiction, hein, et où Léonard en Cassandre promet ou annonce à son demi-frère que cet enfant aura sa peau, hein, et recourt à un langage qui est à la fois politique et militaire, hein. On a ce mot liberta qui nous fait comprendre que en tout père il y a un tyran dont l'enfant voudra secouer tôt ou tard le joug, hein, et un langage militaire avec ce nemicon et morte, c'est une vraie guerre, hein, qui est à l'œuvre entre le père et le fils. Je vous parlais de prophète, on a vu le Léonard prophète, ici c'est bien le Léonard prophète, il y a quelque chose d'oraculaire qui bien évidemment nous évoque aussi, aussi bien je dirais Saturne, hein, dévorant ses enfants parce qu'on lui a dit que l'un d'entre eux le tuerait, et bien évidemment Œdipe, destiné à tuer son père. Alors voilà un texte quand même assez redoutable, hein, et qui va nous permettre de passer au troisième pan de cette promenade, si je puis dire, dans la famille léonardesque. Et où il me semble que donc après avoir, si vous voulez, considéré cette dimension autobiographique, la question de l'illégitimité, la manière dont Léonard l'abordait et la traitait sur le plan littéraire, après avoir tenté, si vous voulez, de reconstituer un possible, je ne dis pas essai, mais une réflexion finalement sur l'institution familiale, hein, et sur certains de ses piliers que sont l'éducation, le mariage. Je dirais, et je ne m'attarderai pas trop sur cette partie, mais ce rejet de la famille, hein, ce rejet aussi de la transmission, comme on l'a vu, hein, prend des proportions tout à fait sidérantes, si je puis dire, et confine à l'angoisse et à l'hallucination. Et j'ai tendance à lire les textes certains des textes qui ont été évoqués par Mathé, je dirais, sur le mode plus rassurant, quelque part, de l'ingratitude, hein. Mais moi, il me semble que dans ces fables, en particulier dans ces écrits justement dits littéraires qui ont été survolés par Freud, les fables et le bestiaire, on a tout un tas d'exemples de perversion familiale avec une prédilection qui ne semble ne pas avoir été remarquée pour l'infanticide et qui ne me semble pas fortuite. Et on a donc le paradoxe que il me semble, on a ici un conservateur du Louvre, mais je ne crois pas que Léonard ait peint, enfin dans sa production graphique, le massacre des innocents, mais il me semble que dans ses écrits, le massacre des innocents soit quelque part omniprésent jusqu'à l'obsession. Et donc j'en ai donné quelques exemples. Il y a un passage où Léonard se réfère bien à la source biblique, hein, à propos, avec toujours ces transpositions animales et végétales que nous savons, et que je n'ai pas le temps d'examiner, parce qu'il y a une quatrième partie à laquelle je tiens. Mais je ferai quand même allusion de nouveau à Calvin, qu'on a mentionné ce matin. Et cette proposition, je trouve assez audacieuse, ce rapprochement entre Léonard et Francis Ponge, le parti pris des choses. Vous constaterez que, effectivement, dans ces récits, ces récits cauchemardesques de mise à mort et d'infanticide, Léonard est toujours du côté des bêtes et des plantes, et c'est l'homme qui est assimilé au bourreau. Donc les bons pères sont, on va dire, végétaux ou animaux, et l'homme se signale par sa férocité. Le summum, on va dire, de cette vision, encore une fois, cauchemardesque de la famille et de la paternité en l'espèce, et ce texte bien connu, où les abbreviatori sont assimilés à des cannibales. Et évidemment, j'insisterai sur le cannibalisme familial, qui fait que donc les hommes, l'espèce humaine est présentée comme une espèce totalement dégénérée, qui mange ses enfants et les siens. Alors ça, je dois vous dire, et je vous propose un peu cette image en vous appelant presque à l'aide, mais j'avais quand même envie de, cherchant finalement la famille dans la production picturale de Léonard, j'attire votre attention sur le fait que la seule familiole que nous pouvions nous mettre sous les yeux est l'aide et le cygne, avec ce traitement véritablement familial de la part de Léonard, puisqu'on sait que l'aide et le cygne est plutôt, me semble-t-il, un thème érotique, que en général c'est le coït qui est représenté, alors que il y a cette innovation sur le plan iconographique de représenter l'issue de ce coït en la présence de ces quatre jumeaux. Et on en arrive à la quatrième et dernière partie de mon exposé, mais qui est quelque part celle qui m'intéresse le plus, même si je considère que les trois pans que j'ai illustrés étaient un préalable absolument nécessaire. Mais il s'agirait de montrer comment cette production biologique, dont on a vu à quel point elle est répulsive pour Léonard, va lui servir pour élaborer une esthétique, on va dire, alternative. Donc la création artistique qui est au rebours de la production biologique. Mais effectivement, Léonard a besoin d'adversaires, a besoin de confrontations, et au fond, cette production biologique est très fonctionnelle de ce point de vue-là. Je passe à un texte que les machiavélistes, qui sont assez nombreux parmi nous, connaissent bien, mais que je trouve assez jubilatoire parce qu'il va nous aider à illustrer ce qui me tient à cœur. Donc c'est cette fameuse lettre écrite par Luca Ugolini à Machiavel, qui est précieuse pour les machiavélistes parce que c'est la seule occurrence du nom de Léonard dans le corpus machiavélique. Je vous renvoie à l'article de Romain dans l'Encyclopédie Machiavelliana sous Léonard. J'aimerais que vous ayez en mémoire la lettre de malédiction qu'on a lue précédemment, parce que vous avez ici la lettre de félicitation que peut-être il fratello Astran attendait. Mais Ugolini dit à Machiavel ce que probablement on voulait entendre à l'époque. Et donc la lettre est à savoir que le petit est le portrait craché de son père. Donc je laisse un peu de côté des considérations féministes, mais que je glisse quand même, et un peu inquiétante sur le rôle de la mère, qui clairement n'a fourni que la matière totalement informée, on va dire, par le sperme masculin, et a eu le bon goût, que, comme une sorte de photocopieuse, de ne surtout pas baver ou d'éteindre sur le petit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce texte donne complètement raison à Léonard, qui nous explique dans le paragraphe successif la mécanique du désir et du désir de reproduction, à savoir que les hommes chercheraient dans leur partenaire un alter ego, quelqu'un qui leur ressemble le plus possible aussi de manière à mettre au monde des enfants qui lui ressemblent le plus possible. Donc c'est formulé en toutes lettres dans la citation que vous avez au milieu, et c'est reformulé de façon extrêmement imagée dans un emblème de la tristesse, attention d'ailleurs, qui veut dire méchanceté, et non pas tristesse, cette méchanceté du corbeau qui ne nourrit pas et même met en danger de mort ses enfants tant qu'ils sont blancs, et commence à les nourrir dès lors qu'ils deviennent noirs. Donc je trouve ce texte extraordinaire parce qu'il met en image en fait ce qui est formulé de manière plus abstraite, de façon même presque manichéenne, mais on a quelque chose de tout à fait central, et on comprend que Léonard ait une sorte de phobie dont nous a déjà parlé Olivier, je crois, ce matin, pour tout ce qui serait répétition. Alors, face à ce mécanisme de reproduction, reproduction au sens propre et au sens figuré, différents expédients sont possibles. On voit que la famille est tolérable sur le plan métaphorique. Je vous en ai donné qu'un seul exemple, mais de fait est que les écrits de Léonard regorgés, peut-être excessifs, mais on trouve des métaphores familiales. Il est intéressant que chez Anse Madre et de la Prospettiva, la maternité est tolérable en tant qu'elle est purement, je dirais, cérébrale et figurée. Une autre alternative dont Léonard n'a bien sûr pas l'apanage, mais que j'avais envie de vous citer, c'est cette très belle lettre de Francesco Melzi à un des demi-frères de Léonard, et ce joli chiasme, fratello vostro e mio quanto ottimo padre. Cette lettre où on oppose bien le lien du sang, et puis au contraire, cette relation, ce lien d'élection, mais qui est valorisé par rapport au lien du sang, puisque la symétrie est rompue par ce ottimo padre. Mais ces solutions, évidemment, sont relativement courantes. Léonard n'en a pas le monopole. En revanche, plus intéressante, effectivement, sur le plan théorique, cet éloge des fils uniques. Je dois vous dire que j'avais d'abord intitulé cette diapositive éloge de la stérilité, mais c'est pas ça. Après, je suis passée au du fils unique, et en réalité, c'est des fils uniques. Pourquoi ? Parce que dans ce passage, Léonard critique, si vous voulez, un certain nombre d'arts et techniques comme l'imprimerie et la sculpture qui, selon lui, permettent de reproduire et de sérialiser, et ce côté « questo non fa infiniti figlioli », ce mépris à l'égard de l'imprimerie qui est prolifique, qui se reproduit, et il y a quelque chose de presque aristocratique dans cette répugnance au fond pour cette multiplication et cette démultiplication de soi. Et on a cette phrase extraordinaire sur la peinture: et non partorisce mai figlioli uguali a sé. Donc seule la peinture aurait cette capacité, enfin le grand peintre, parce qu'on va voir c'est ce qui permet de distinguer le grand peintre du peintre médiocre, aurait cette capacité de ne pas se reproduire et de faire effectivement des fils uniques, c'est-à-dire des œuvres qui seraient absolument indépendantes les unes des autres, et qui auraient coupé le cordon ombilical avec leur père. De sorte que cette reproduction-répétition nous fournit finalement des outils extrêmement utiles, la répétition comme repoussoir, l'autoportrait comme spectre, Olivier en a parlé, la répétition donc est bannie à tout niveau, que ce soit la répétition de l'auteur qui ne peut pas s'empêcher, si vous voulez, de s'auto-reproduire dans un portrait, donc tout portrait recèlerait un autoportrait, mais d'après Léonard, ce sont les mauvais portraits qui fonctionnent de cette manière. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le mauvais peintre, effectivement, est celui qui a le comportement standard et archétypique du père. Donc le père instinctivement cherche à se reproduire, c'est ce que le mauvais peintre va faire. Ou alors la reproduction, la répétition d'un tableau à l'autre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir effectivement un air de famille entre les différentes toiles d'un même auteur, et la répétition au sein même du tableau, c'est-à-dire les mêmes postures, les mêmes têtes, Et l'on voit très bien là dans les exemples que je vous ai donnés à quel point la fraternité apparaît comme tout à fait dissuasive et sert à Léonard de contre-modèle. J'en arrive à ma conclusion. Est-ce que j'ai le temps de vous faire ma conclusion, enfin de prendre un tout petit peu de temps pour ma conclusion, ou il faut que j'aille, oui. Alors, la conclusion qui a donné aussi le titre de mon intervention, l'impossible portrait du bon père de famille. Impossible donc de trouver un bon père de famille aimé et heureux, si ce n'est dans le libre dit Pitour, et bien évidemment sur le papier de manière abstraite, où Léonard évoque en fait cette Pitour imitata d'un padre di famiglia, fêté, hein, choyé par des petits-enfants. Le petit n'est pas négligeable, et encore moins la précision qui est encore un R non elle fâché, c'est-à-dire que Léonard insiste sur le fait qu'il s'agit de infantes, d'enfants qui n'ont pas encore accès au langage, hein, donc qui sont dans une dimension infralinguistique, de même que il can et la gatta sont dans une dimension extralinguistique. Et il s'agit donc d'enrôler ce portrait dans le débat dont on va dont on a déjà parlé, dont on va continuer à parler, Il Paragone, et en particulier la disputa entre poésie et picture. Hein. Il s'agit d'arguer de la supériorité communicative de la peinture sur l'écriture, et le fait que donc, l'image est capable de communiquer avec les hommes de toute langue, de tout continent, mais aussi avec toutes les espèces humaines et non humaines, et avec ceux qui ont accès ou pas au langage, avec toutes les formes de langage. Et alors, pour terminer sur une note un petit peu triste, ce portrait qui est quelque part impossible pour Léonard, c'est-à-dire l'image d'un père aimé, heureux, hein, je vous ai mis un dessin sur la droite où on voit le chat et il poutine, hein, hein, il poutine, mais le père n'est pas là, et celui qui va faire ce portrait, c'est Raphaël, Raphaël qui fait le portrait de Castiglione, il me semble en 1516, et quelques années plus tard, Castiglione prête à sa femme une élégie qu'il a écrite lui-même et dont j'ai sélectionné un seul vers, mais qui me paraît des plus intéressants, c'est-à-dire que dans cette élégie, la femme Hippolyte dit parler avec le tableau, mais évoque in extremis agnoscit un enfant, puer, hein, qui reconnaît et salue son père, et ce détail extraordinaire balbocque ore, hein, donc on insiste bien sur l'idée que l'enfant balbutie. Il me semble que Castiglione, dont on dit qu'il est le premier relais pour la dissémination des idées excusez-moi, Léonard, s'est peut-être inspiré de ce passage. J'en ai fini. Merci à la fois à Matteo Desidori et Frédéric Dumas pour leurs deux interventions. Je passe tout de suite la parole en me permettant de préciser que le débat aura bien lieu, mais en fin d'après-midi, à Marco Versiero, qui est un spécialiste de Léonard, qui a publié un ouvrage consacré à Léonard, tout simplement intitulé Leonardo da Vinci, et qui est actuellement committee member de la Leonardo da Vinci Society de Londres, et donc à qui je laisse la parole. Merci beaucoup. Allora, vi ringrazio tanto di questo invito per me importante, sono molto lieto di essere con voi. Effettivamente ho dovuto dare come indicazione più recente il fatto di essere un committee member della Leonardo da Vinci Society, però mi piace qui in questa schermata iniziale poter ricordare la mia esperienza di recentissima data dello scorso anno con l'amico Romain Desandre e gli altri colleghi dell'INAS di Lille. Lyon perché appunto si è trattato di un momento di grande arricchimento non soltanto sul piano scientifico, accademico, ma anche di crescita umana e personale. E cercherò in questa giornata, in questa comunicazione con voi, di tematizzare, fedele a quello che è il tema avvincente, affascinante da voi scelto, alcuni nodi, alcuni intrecci tematici a me molto cari dell'ascito intellettuale di Leonardo. E ho il piacere di aver incontrato in questa sede il dottor Salzi, che è il conservatore delle raccolte d'arte del Castello Sforzesco di Milano, perché esordirò proprio con una illustrazione della importanza del programma iconologico di Leonardo nella sua ornamentazione pittorica della cosiddetta Sala delle Asse nella torre nord-est del Castello Sforzesco di Milano, che in realtà, secondo una scoperta archivistica recente, è da rinominarsi Camera dei Moroni. E questo sulla base di una attenta rilettura che uno studioso, il Catturini, ha fatto di una fonte contemporanea a Leonardo e di un autore a lui ben noto, cioè Luca Pacioli, proprio nella lettera dedicatoria di Divina Proporzione, il famoso trattato per il quale Leonardo aveva collaborato col matematico francescano per la produzione delle illustrazioni di poliedri platonici. Ebbene, in quello scritto del Pacioli, amico, collaboratore, sodale di Leonardo, già esiste una precoce attestazione che quel luogo si chiamava originariamente Camera dei Moroni e non Sala delle Asse, sulla base di un'erronea interpretazione di un documento antico, quello appunto che attesterebbe la commissione ducale a Leonardo, no? Si desarmerà la Camera Granda dalle Asse, cioè dalla torre, magistro Leonardo promette finirla per tutto settembre, e questo è un documento dell'autunno del 1498 del segretario ducale Marchesino Stanga a Leonardo. Quel dalle Asse è stato interpretato sin da Luca Beltrami come un predicato nominale per cui la sala dovesse essere Sala delle Asse o dalle Asse, sulla scorta di immaginarie boiserie, di immaginarie, come dire, pannelli lignei che dovevano essere affissi alle pareti. Invece sappiamo che questa sala aveva un'originaria nominazione che era Camera dei Moroni, che corrisponde in tutto a quello che è l'effettivo programma iconologico di Leonardo, che rappresenta dei moroni, cioè degli alberi di gelsi, dei gelsi mori, che già onomasticamente sono evocativi della figura del patrono sforzesco, cioè Ludovico il Moro. Ma il discorso inaugurato questa mattina da Romain sull'importanza del buon uso delle fonti in Leonardo, qui si può rinnovare, perché è Plinio, il Plinio della storia naturale, che è tra i primissimi libri posseduti, compulsati, letti da Leonardo, tant'è che uno dei cinque titoli che compaiono già nella lista succinta di libri del Codice Trivulziano, che è del 1487-90, e quindi questo Plinio già evocativo di una conoscenza precoce, importante del testo antico, aveva già associato l'autore latino il valore simbolico del gelso alla virtù politica della prudenza, perché il gelso era ritenuto attendere che l'ultimo rigore invernale, che l'ultimo freddo passasse prima di germogliare. E quindi in un momento politico estremamente precario, estremamente complesso e contraddittorio, quale quello dello scadere del 400, dell'ultima decade del secolo, quando appunto le vicende politiche del Moro sono quanto mai burrascose, quanto mai ambigue, questo simbolico, macroscopico, elogiativo appellarsi alla virtù prudenziale simboleggiata dal gelso sembra in odore di propaganda quasi oltre ogni limite cronologico comprensibile. Eppure sembra essere stata questa proprio l'intenzione alla base del programma iconologico. Qui vedete l'allestimento della metà degli anni 50 con appunto la riproposizione delle assi lignee sulle pareti della sala, assi che sono state rimosse nell'ultimo intervento di restauro principiato nel 2013, come detto, sotto la direzione del dottor Salzi e con il contributo importante dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, particolarmente di Cecilia Frosinini, che sta portando alla riscoperta dei nodi vinciani, cioè dell'autentico pattern non soltanto estetico, ma anche contraddistintivo per singolare sovrapposizione onomastica della personalità stessa di Leonardo, perché i vinci, ovvero i vincoli, erano non soltanto in una via interpretativa estensiva i nodi della conoscenza da sciogliere, ma erano proprio indicativi della sua stessa identità. Addirittura con un livello autobiografico che affonda nella pratica artigianale del canestrare li vinci del suo paese natale, Vinci appunto, dove c'era questo uso di produrre dei manufatti artigianali, delle canestre in sostanza, con dei serti flessuosi di arbusti molto simili ai salici, i vinci appunto. E quindi c'è questa sorta di crocevia semantico che in qualche modo Leonardo magnifica e ripropone in un formato grandioso nella Sala delle Aste, dove vedete come l'alleggerimento delle pesanti ridipinture di primo Novecento attuato dall'ultimo intervento di recupero stia facendo emergere quale fosse la reale ed effettiva tramatura dei nodi di corda che senza soluzione di continuità si intrecciano alle fronde dei rami. E riconoscete in questo dettaglio ingrandito anche i frutti dei gelsimori, le more appunto, che erano evocative della personalità del duca. E qui cito Lomazzo, perché estimatore, interprete finissimo, sottile, a mio modesto avviso più del Vasari, di quella che è l'autentica eredità non soltanto del magistero artistico di Leonardo, ma della sua propria figura e statura intellettuale, al punto di volere in qualche modo egli stesso porsi come suo epigono a tardo Cinquecento, ormai al tramonto del Rinascimento, anche la produzione trattatistica di Lomazzo testimonia questo. Ebbene, il Lomazzo del Trattato dell'Arte della Pittura, Scultura ed Architettura, al libro 6, dice espressamente: negli arbori altresì si è trovata una bella invenzione di Leonardo, una invenzione quindi di Leonardo, di far che tutti i rami si facciano in gruppi bizzarri. Ecco, tornando al tema del gruppo, del groppo, del nodo, sono bizzarre, sono bizzarrie, sono parenti dei ghiribizzi, per i quali in qualche modo lo stesso Vasari avrebbe un po' criticato Leonardo, o quelle strane chimere, quei nuovi concetti che Baldassare Castiglione avrebbe contestato alle ambizioni filosofiche di Leonardo, no? A così strani concetti che con tutta la sua pittura non saprì dipingerli. E la Sala delle Aste sembra essere uno di questi divertissement, uno di questi di queste bizzarrie, di questi ghiribizzi. E precisa Lomazzo: la qual foggia usò, canestrandogli tutti, bramante ancora. Quindi questo rinvio originario alla pratica del canestrare i vinci ha una memoria ancora tardiva in Lomazzo, che ricorda un fatto vero, cioè che la pratica della foggia, appunto del nodo, dell'intreccio, del groppo, come appunto lo si chiamava, era condivisa da Leonardo con il suo collega e amico maestro Donnino, cioè Donato di Pascuccio, detto il Bramante, anche lui pervenuto pochi anni prima a Milano da Urbino. E in una notazione del pressoché coeva del foglio 611A recto del Codice Atlantico, Leonardo menziona in maniera lapidaria, stringata, ma inequivocabile, groppi di Bramante. E qui si può aprire un'affascinante questione sulla paternità di questi groppi, di questi nodi, di questi vincoli. Beh, io propenderei per Leonardo, però anche perché ne restano testimonianze figurative più numerose e più significative, però è chiaro che lo stesso Lomazzo lascia aperta con un margine di ambiguità la questione su chi dei due avesse inventato questo genere, che poi diventa, come vedremo, evocativo anche del vincolo d'amore, in quanto tale celebrato nella poesia encomiastica di corte. Niccolò da Correggio, nella corte gemella del Ducato Sforzesco di Milano, cioè quella di Estensi a Mantova, auspice Isabella, cognata del Moro, promuove un genere letterario preciso che è quello delle fantasie dei vinci, cioè i vinci diventano sempre come fantasia, come divertissement, come bizzarria, come sortileggio quasi simbolico, evocativi di un vincolo d'amore. Qui vedete quello che è ad oggi considerabile l'unico lacerto interamente autografo della decorazione parietale della Sala delle Asse, e cioè il cosiddetto monocromo, ma anche lì si è appurato che non è una tecnica pittorica monocroma in senso stretto, è un disegnar dipingendo, c'è un modo in cui il tratteggio di Leonardo viene portato su una scala monumentale, questa curvilinearità della piena maturità di Leonardo, e di cui si dà qui una prima espressione grafica, seppur su muro e supportato monumentale, quasi all'alba del nuovo secolo, perché siamo nel 1498-99, e in questo dettaglio, dove viene appunto raffigurata una radice che quasi si fa strada tra gli strati di pietra nei meandri del sottosuolo, ben si rilegge in sottotraccia quel memorabile passaggio della indimenticata e indimenticabile Anna Maria Brizio, che ebbe a dire: il massimo di suggestione di potenze compresse che vi sono racchiuse stiano per liberarsene, travolgendo quel difficile e precario equilibrio di forza e intenzione. Cioè viene fermato un momento in atto, che è quello appunto della vitalità irrefrenabile della natura, anche quando insospettabile, perché calata nelle viscere della terra, cioè quella natura che affascina per le sue interiorità, auspice una conoscenza non trascurabile di Seneca, delle Naturales Questiones, del Brevitate Vita e di altri testi, dove appunto si insiste anche sulle caverne, sui meandri della terra come scrigni di meraviglie, oltre che come luoghi di spavento e di mistero. E si vede proprio la trasposizione su scala appunto magnificata di questo disegnar dipingendo, di questa tecnica tratteggio, seppur data col pennello anziché con lo stilo o con la penna sul foglio, che segue la convessità o la concavità delle forme, quindi dà spessore pur nella qualità monocromatica della decorazione, dà spessore, volume, corpo. E qui vedete in via sagittale una stratificazione di quello che è ciò che rimane della Sala delle Asse, cioè la volta interamente decorata con il pergolato illusionistico, con l'intreccio di fronde e di corde, che però appunto bisogna tener conto che è stata una parte pesantemente ridipinta all'inizio del Novecento, quindi bisognerà capire alla fine delle fasi di restauro attualmente in corso cosa effettivamente di Leonardo e Bottega fosse originariamente presente e possa essere auspicabilmente riportato in luce, e quanta parte in via compromissoria invece per preservare un'intelligibilità dell'insieme andrà comunque conservata dei rifacimenti storici successivi. Insomma, un po' l'operazione che si è fatta anche per il Cenacolo, 20 anni durata quella. Vedete la fascia del monocromo, siamo all'angolo nord-orientale della torre, appunto nord-orientale del castello, e sotto c'è questa ulteriore fascia originariamente scialbata, che è stata appunto, qui vedete la restauratrice Michela Palazzo all'opera. La foto mi piace perché dà una scala e una misura della statura di una figura umana rispetto alla grandiosità della decorazione, e sono venuti in luce delle sinopie, degli schizzi direttamente su un muro, di estrema brevità, di estrema immediatezza, e che però indubitabilmente ci raccontano un'istantanea paesaggistica. Vedete come ci sono dei casamenti, degli alberi, delle ulteriori rocce. Probabilmente lo sguardo avrebbe potuto, a ulteriore accentuazione dell'artificio illusionistico, di sfondamento prospettico e appunto di proiezione della camera picta in uno spazio ulteriore, altro rispetto a quello della sala, avrebbe offerto questa veduta e lontananza di un paesaggio distante. E qui ci sono dei brani più consistenti, il primo ripreso in luce normale, sono altri rami dove insiste questo tratteggio che tornisce, che leviga, è un retaggio del disegno tecnologico di Leonardo, quello appunto che insegue i meccanismi dei suoi ingranaggi, la stessa tornitura, lo stesso cesello ritorna in questi disegni di rami e di fronde, e sotto un meraviglioso dettaglio però in ripresa ultravioletta che lo enfatizza, di un cespuglio lanceolato che sembra identicamente ripreso da quello celeberrimo della Vergine delle Rocce che avete qui al Louvre. Il tema del nodo, dicevo, contraddistintivo dell'identità stessa di Leonardo, ma non soltanto su un piano autobiografico ma anche intellettuale. Le cosiddette cartelle incisioni dell'Accademia Leonardo da Vinci, che in realtà non era una vera e propria accademia nel senso seicentesco del termine, ma era evidentemente un modo altisonante, un modo raffinato di alludere alla propria schiera di seguaci, alla propria scuola e alla propria pratica di bottega a Milano, ricorrono insistentemente e con una potenzialità infinita di soluzioni alternative a questo tema del nodo, dell'intreccio, con una compatibilità, se vedete, con quelli che sono rappresentati più ampia scala nel pergolato della Sala delle Asse, eccezionale. Addirittura anche la centralità dell'emblema della cosiddetta Accademia Leonardesca coincide con la focale centralità del blasone con le insegne sforzesche ed estensi, cioè che testimonia già l'unione con Beatrice d'Este alla sommità della Sala delle Asse. Il manoscritto H, che è del 1494, quando con ogni probabilità già potevano essere iniziati i primi saggi di intervento di Leonardo nella sala, anche se poi ne abbiamo attestazione sicura soltanto nel 97-98 con ogni probabilità, riporta studi di maglie, di nodi, di intrecci, anche per le applicazioni più disparate, cioè questi probabilmente erano per dettagli ornamentali, per addirittura di tipo vestimentario. Subito a destra invece un disegno più articolato e di tramatura più strettamente geometrica, che addirittura Beltrami ritenne di poter associare alla pavimentazione della Sala delle Asse, quasi che ci fosse un unico congegno iconologico che dovesse anche riguardare il suolo della sala, non soltanto le sue pareti a sua volta, ripropone in una versione tecnicamente interessante lo stesso pattern. Qui in pratica è un foglio ripiegato in quattro e il sistema è quello della puntinatura a spolvero, cioè si disegnava solo la metà o la quarta parte delle forme, per poi, facendo trapassare una polvere di carbone tramite la puntinatura, poterlo ribaltare specularmente. Ecco, il tema della specularità anch'esso a tal punto proprio di Leonardo che si ripercuote anche nelle sue tecniche, nelle sue pratiche artistiche. Ma il tema dell'albero, della colonna portante dello Stato sforzesco, e in questo mi rifaccio a uno studio fondamentale di Pietro Cesare Marani, che dai primi anni Ottanta ad oggi rimane tuttora insuperato circa l'interpretazione del valore allegorico di quella sala, e cioè le colonne ad tronconos, il magistero combinato di Vitruvio e di Alberti, che nei primi anni milanesi sono molto presenti nelle letture di Leonardo, quindi il De Architettura di Vitruvio e il De Reedificatore dell'Alberti, il Battista Alberti in architettura, che sarà poi citato in un volgarizzamento, ma che già nei primi anni Ottanta era molto, nella versione latina, era sott'occhio, sotto mano a Leonardo, insistono su questa connotazione degli alberi colonna, cioè della origine dell'elemento architettonico della colonna dal fusto arboreo. E nella Sala delle Asse c'è anche questo, questi 16 mani tronchi che devono figurare una pergola che altro non è se non una illusionistica copertura architettonica, seppur naturalistica. Ma il tema dell'albero e della sua, del suo germoglio, del suo rigoglio, è un tema che, pur assimilato da Leonardo per via naturalistica, dalle fonti che ho enumerato, è particolarmente attinente alla araldica sforzesca. Qui abbiamo un esempio di quella che, rifacendomi al compianto Carlo Pedretti, al quale in questa sede mi sento di rivolgere comunque un pensiero, sulla sinistra abbiamo un emblema di quello che Pedretti identificò come l'allegoria della vite che rinasce, che è anche un emblema della vita che rinasce. È chiaro che l'affossamento del tralcio di vite non impedisce alla irresistibile vitalità di questa forma vegetale di riemergere a poca distanza con rinnovato vigore. E la didascalia volutamente frammentaria di Leonardo Sotto ripropone l'iscrizione sul cartiglio svolazzante: quando penserai che io, sottinteso, sia per morire, e io rinascerò, in corrispondenza delle due parti, quella affossata e quella rinvigorita della vite. Ed è una vite, perché al tempo più o meno contemporaneo, Leonardo annota nel manoscritto H, che è una traccia fondamentale per la biografia sforzesca di Leonardo, vigne di Visievane a D 24 di marzo 1494, e la vernata si sotterrano. Quindi è un riferimento alla pratica usuale nel dominio sforzesco, non soltanto per quanto riguarda i gelsi che erano alla base dell'allevamento dei bachi da seta e quindi della fiorente industria serica di Milano. Quindi il gelso era simbolo non soltanto politico, araldico, onomastico del Moro, ma anche di una fiorente potenza economica del Ducato sforzesco. Ma persino una pratica che Leonardo deve aver osservato nel suo passaggio vigevanese della primavera del 1494, come quella di sotterrare le viti, probabilmente malconce, probabilmente morenti, in attesa che un nuovo pollone possa rinverdire, doveva averlo suggestionato come emblema della rinascita, come perdurante suggestione del broncone mediceo, no? Il broncone mediceo, che è quello che ricorre in un taccuino della fine degli anni 90, della metà fine degli anni 90 del 400, insieme a un altro emblema, quello del falcon tempo, no? Ma quello del broncone, che il disegno a matita rossa nel registro superiore, subito sotto alle annotazioni a penna inchiostro che riguardano gli atteggiamenti delle figure del cenacolo. Quindi abbiamo un appiglio cronologico, seppur indicativo, dal 1494 in poi. Ebbene, il motto che accompagna l'impresa è: albero tagliato che rimette, ancora spero. Quindi questo rinverdire, questo rifiorire dell'albero dirozzato, che però lascia spuntare nuove foglie, che era stato ripreso dall'emblema mediceo del broncone, ma che era consono anche alla temperie culturale attestata dall'araldica sforzesca, ritrova testimonianza nell'emblema della mano decussante, ovvero dell'albero dirozzato, che è attestata in molteplici versioni nei blasoni marmorei che costellano i principali monumenti di Milano. A sinistra vi ho indicato il cortile della Rocchetta in Castello Sforzesco, e a destra Santa Maria delle Grazie. Persino un disegno molto più tardo di Leonardo, sempre con valore allegorico, la cosiddetta allegoria del calandrino, che risale al momento successivo del suo ritorno a Milano sotto la dominazione francese, cioè tra il 1506-8 e il 1510, è un disegno che associa il tema del nodo, il tema dell'intreccio, che contorna in qualche modo il motivo simbolico principale, che è quello dell'uccello in gabbia, con il tema della speranza, perché la didascalia dice: i pensieri si voltano alla speranza. Quindi ancora una volta il rigoglio, il rinverdire botanico è emblematico, come anche nel caso della resistenza del gelso, è emblematico della persistenza della speranza nella continua rinascita. E addirittura, appunto, nel disegno mediano c'è una combinazione dei nodi con dei germogli, delle foglie, dei fiori che sbocciano lungo questi serti intrecciati, quasi a dire che c'è ancora presente una memoria del canestrare i vinci, ma anche oltre 10 anni dopo del dispositivo ornamentale allegorico della Sala delle Aste, dove appunto l'intreccio dei rami ha la stessa natura e la stessa forma estetica dell'intreccio delle corde. Questa possibilmente, nella mia interpretazione, un'allegoria invece del risanamento del reggimento delle terre lombarde sotto i francesi, cioè un omaggio a Charles d'Amboise, che era il governatore del Ducato di Milano per conto di Re Luigi XII, perché il calandrino dal fiore di virtù altro non significa se non un simbolo di pronta guarigione, in quanto il calandrino, la leggenda medievale riportava, poteva rivolgersi all'ammalato portato al suo cospetto solo in vista di una sua guarigione. Se il calandrino non si girava a cantare, l'ammalato era, diciamo, in prossimità della estrema unzione. Vi dicevo delle fantasie dei vinci, il vincolo d'amore. Ecco, qui tutto parte, tutto nasce, insomma, e per me tutto finisce, perché il mio amore intellettuale per Leonardo è nato nel 1998, quando c'è stata appunto l'esposizione itinerante in Italia della Dama con l'Ermellino, Cecilia Gallerani, e è evidente come il decoro del vestito della Camora, della favorita di Ludovico il Moro, sia tempestato, oserei dire, in almeno 2 se non 3 ordini paralleli di nodi vinciani, di nodi ludoviciani, di nodi sforzeschi, di fantasie dei vincoli d'amore, non sapremmo dire. Ma certo è che, se non specificamente per questo miniaturistico dettaglio che pur ci parla del legame dell'effigiata con il Duca di Milano, per l'elemento simbolico più evidente, cioè l'Ermellino, si tratta di un'allegoria politica sforzesca. Qui vedete l'Ermellino rappresentato ancora una volta come emblema di imprudenza, evidentemente una virtù politica che stava particolarmente a cuore al Moro, seppur nella variante, nella versione qui, della moderanzia. Lui preferisce farsi stanare e bastonare da un cacciatore piuttosto che infangarsi e quindi maculare la sua gentilezza, dice Leonardo, con il fango che, vedete, in maniera semicircolare è stato disposto dal cacciatore all'uscita del suo covo. E addirittura l'Ermellino qui ha la stessa posa forzatamente araldica, con la zampetta contratta in un gesto quasi di reverenza, che ritorna nella seppur in una versione più audace, più selvatica, nella bestiola ritratta nel quadro di Cracovia. L'Ermellino è il tema proprio di un'allegoria politica di Ludovico. L'Ermellino col fango, anche che io qui ve l'ho riprodotto specchiato, si legge chiaramente a matita rossa in altro. Galeazzo tra tempo tranquillo e fuggita di fortuna, cioè questo Ermellino che si è sporcato nel fango alla fine e che ha rinunciato a un atteggiamento politico prudente e moderato, è forse un'allusione a Ludovico il Moro, l'Ermellino appunto, che in realtà compie un audace colpo di mano e quindi spodesta, addirittura si pensa facendolo assassinare, il figlio del fratello, il nipote Gian Galeazzo Medasforza, e ottiene dall'imperatore Massimiliano d'Asburgo anche la titolarità ufficiale del Ducato di Milano, da reggente de facto che era. Ecco perché il Bellincioni, nella sua poesia encomiastica cortigiana celebrativa, si spertica in lodi per il Ludovico Ermellino, addirittura in 2 sonetti dalla titolazione emblematica, contro ai maldicitori, cioè contro le calunnie, tutto Ermellino è, sebben un nome a nero. È tutto dire, il Moro che però è bianco come Ermellino, e lo specifica nel sonetto espressamente intitolato Alla prudenza del signor Ludovico, l'italico Morel, bianco Ermellino, addirittura italico per l'aspirazione di Ludovico a sostituirsi al Magnifico come ago della bilancia. Non mi soffermo su questo perché sono indicativi dell'investitura e dell'onorificenza all'ordine dell'Ermellino che dal re di Napoli il Moro aveva ricevuto nel 1486-88. Ecco perché per un paio d'anni esiste questa associazione araldica, simbolica, di Ludovico il Moro con l'Ermellino. E invece vengo a 2 allegorie che rappresentano dal punto di vista simbolico, concettuale, dei nodi, tuttora in parte da sciogliere nella produzione figurativa sforzesca di Leonardo. Sappiamo da Lomazzo, dal sempre accuratissimo trattato, che questa allegoria, oggi conservata a Oxford come le allegorie gemelle del piacere e dispiacere, doveva essere accompagnata da un testo che purtroppo Lomazzo, non si capisce perché, non ha voluto o potuto o saputo trascrivere. Probabilmente lo scempio perpetrato da antichi sedicenti collezionisti ha determinato la resecazione del supporto cartaceo, quindi noi non abbiamo annotazioni. Però qui è evidente che nei dettagli è riconoscibile ancora una volta un palinsesto della politica sforzesca, attentamente, forse addirittura in maniera satiresca, osservata da Leonardo. Al centro c'è una grande gabbia circolare vuota, che è un po' un emblema di libertà preservata, sopra la quale domina un uccellaccio spaurito, un gallazzo in vernacolare milanese, cioè galeazzo, e sul quale esercita una funzione di protezione la Prudenza, che è la vera protagonista ancora una volta della scena, nella sua versione binata, come un giano bifronte, sottolineo in questo dettaglio in alto a destra, dove vedete il volto da vecchio rivolto al passato e il volto di giovane rivolto al presente, ma sulla sinistra c'è lo specchio, ecco di nuovo il tema dello specchio, col quale integrare anche il tema dell'allegoria dello specchio solare, il volto da anziano, cioè la consapevolezza, il contemperamento del passato, si rispecchia in quella che è un'altra figura allegorica, cioè la giustizia, che regge anche la spada, ma che fa da ancella alla Prudenza, dandole lo specchio, che è un attributo che le è consono. Quindi cosa significa? Che la giustizia è secondaria alla Prudenza, che la giustizia nel disegno politico ludoviciano, attentamente osservato e trasposto in figura da Leonardo, è sussidiaria come esigenza e come virtù politica rispetto all'esigenza della Prudenza. E poi sulla destra si trovano altri elementi facilmente riconoscibili, questo satiro cornuto con i senivizi è una raffigurazione dell'invidia, le belve feroci che assaltano i biscioni, i viscontei sforzischi, questi serpenti davanti alla gabbia, alludono chiaramente alle minacce esterne al ducato. Ma lo stesso dispositivo della Prudenza come centrale iconograficamente, concettualmente, ma anche nella scrittura, stavolta almeno in parte sopravvissuta, a corredo di Leonardo, è questa magnifica e senza precedenti allegoria per il moro con gli occhiali. Allora, sotto la iscrizione frammentaria dice: fuggitiva, perché lo invidioso, dando falsa infamia, non può stare al paragone, onde conviene inverso, e vabbè, anche qui non sopravvive la continuazione del testo. Però ci soccorre un testo del solito manoscritto H, un testo coevo, in cui si scrive: il moro con gli occhiali, testualmente, e la invidia con la falsa infamia dipinta, e la giustizia nera per il moro. Qui tutto viene in maniera stringata, essenziale, ma con una scansione iconologica impeccabile, chiarito. Al centro c'è il moro con gli occhiali, ma non è un ritratto veridico. Credo di essermi per la prima volta io accorto che qui abbiamo un faraone egizio, sostanzialmente. Abbiamo un negroide calvo, con grosse orecchie pendule, con questo naso retroussé particolarmente riconoscibile, con le grosse, prominenti labbra carnose, perché il faraone egizio è la massima rappresentazione della sovranità mora, moresca, alla quale, con una iperbole celebrativa, probabilmente Leonardo voleva riferirsi per il moro, che ha però gli occhiali che servono per meglio conoscere, come in un altro in un'altra iscrizione emblematica del manoscritto H ritroviamo, e smaschera la invidia, che è il solito scheletro accecato, perché l'invidia è cieca e quindi ha le frecce negli occhi, questa invidia che esibisce una banderuola che ha l'emblema della falsa infamia dipinta, che sarebbe il solito gallaccio trafitto da una freccia, cioè galeazzo ammazzato. Quindi c'è una sottigliezza iconografica che corrisponde in via programmatica a questi testi che possiamo fortunatamente associare a un'allegoria, fatto raro in Leonardo, cosa che non è possibile invece per l'allegoria del lupo in barca, per la quale però, pur in assenza di un testo esplicativo autografo, io mi allineo all'interpretazione di Pietro Marani, cioè di riconoscere nell'albero come arbusto, cioè dell'albero della nave che funge anche da albero della vela della nave, un gelsomoro, cioè ritorna l'albero della sala delle asse, riconoscibile per la particolare conformazione del fogliame, ma soprattutto perché questo non è un disegno della tarda maturità di Leonardo, ma per le sue qualità grafiche e stilistiche è un disegno della metà fine degli anni 90 del 400, cioè un disegno ancora sforzesco. E quindi l'allusione alla Navis Ecclesia, la nave della Chiesa, con il lupo antropomorfo che è la lupa di Roma, vuole essere un'allusione non al Leone X, ma alla corruttela ecclesiastica del pontificato di Alessandro VI Borgia. Così come la presenza dell'aquila incoronata che sovrasta un globo terracqueo non è indicativa delle aspirazioni imperiali di Francesco I, ultimo patrono mecenate di Leonardo, perché sulla corona sono riportati ad emblema i fleur-de-lis, cioè i gigli di Francia emblematici della sovranità francese, ma è Carlo VIII. Quindi Carlo VIII al tempo tra il 94 e il 95 della sua calata in Italia, del suo passaggio milanese in via così controversa appoggiato in una prima istanza dal Moro, e quindi c'è questa fotografia, diremmo noi oggi, così ricettiva delle ambiguità poste in essere non soltanto da Ludovico, simbolicamente presente come albero gelso della nave, ma anche del Papa Borgia da un lato, e dello stesso re di Francia dall'altro, che solo in un secondo tempo si vede costretto a ridimensionare le sue aspirazioni di conquista, a testimonianza del fatto che Leonardo, contrariamente a un pregiudizio di apoliticità che lo ha lungamente caratterizzato nella storiografia di inizio Novecento, a partire da una celebre smontatura acerrima di Benedetto Croce, aveva invece una forte sensibilità politica, quale purtroppo è testimoniata anche da scritti che non ho il tempo di commentare, che quindi non commenterò, ma che avevo previsto di indicare come la terza parte del mio intervento, cioè testimonianza di nodi anche testuali, nodi lessicali, di nodi semantici, di impasti semantici che per via di vocabolario politico è dato di rinvenire nell'opera di Leonardo. Cioè basti leggere questo che era con ogni probabilità nelle sue intenzioni l'abbozzo del proemio a un progettato ma mai realizzato libro d'arte militare, forse lo stesso vagheggiato per De Borri, non si può escluderlo, dove è condensato un di fatto un enunciato politico di estrema puntualità. Per mantenere il dono principale di natura, cioè libertà, trovo modo da offendere e difendere instando assediati dagli ambiziosi tiranni, e prima dirò del sito murale, e ancora perché i popoli possino mantenere i loro buoni e giusti signori. Quindi da un lato ricorre questo stilema, quasi potremmo dire aristotelico, della contrapposizione tra reggitori buoni e virtuosi e invece despoti e tiranni marcati antropologicamente dall'ambizione, ma quello che più ci importa ai fini della eterna e forse irredimibile controversia su Leonardo pacifista, ma perché Leonardo poi ha fatto macchine da guerra così efferate, qui in omaggio all'amico De Sandro ho voluto riprodurre i famigerati carri falcanti, dove lui con una modernità di disegno ancora alla metà del penultimo decennio del 400, appena poco dopo il suo arrivo a Milano, è in grado di ritradurre quelle ingenue e diciamolo pure stentate illustrazioni delle edizioni del Ramusio Valturio in disegni programmatici di presentazione di estrema qualità ed eloquenza, addirittura con il dettaglio macabro dei corpi falciati, trucidati, dei nemici che vengono lasciati dalle falci applicate al carro. Quindi come conciliare questo Leonardo, inventore di efferati ordigni bellici, con le professioni sue reiterate per il rispetto della vita, per il ripudio della guerra, la guerra come pazzia bestialissima, proprio in nome di questo valore della libertà, il dono principale di natura, quindi questo retaggio che per via naturale del quale per via naturale ciascuno è dotato, ma in particolare anche i reggimenti politici, cioè è in nome della preservazione di quella libertà, siano essi monocrazie o democrazie. Su questo non insiste una distinzione di merito molto a priori per Leonardo, tant'è che lui coniuga questa esigenza, che per noi potrebbe essere di tipo morale, etico-politico, con un'esigenza fattuale di giustificare, dice, prima parlerò del sito murale, cioè prima ci occupiamo di cose difensive, di ordine pratico, di architettura e di fortificazione militare, ma poi vi dovrò dire come e perché i popoli possono mantenere i loro buoni e giusti signori, e solo loro, un mantenere che però è non soltanto militare, di sostegno, perché si sa che la leva lì va sul popolo, ma è un sostegno anche consensuale. C'è una percezione da parte di Leonardo della legittimazione politica senza la quale nessun governatore può, capo politico può preservare l'equilibrio del proprio ordinamento. Ecco, io mi fermo qui e mi scuso, senza aver guardato l'orologio, per aver sicuramente sforato oltre ogni margine di tollerabilità, e vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Un quart d'heure de pause, mais si vous voulez bien, pas plus qu'un quart d'heure, hein, avec cette idée qu'on écoutera les trois autres interventions, et puis pour ceux qui pourront et qui le souhaiteront,